Non ho... Mannaggia. Non ho altro che il mio sorriso, un pezzo di paradiso. Perché da una chiassosa risata l'ho sempre diviso. Spesso parlo poco, di rado grido. E credimi che è vero che no, io non derido. Perché sono stato sempre il tipo che riso dagli altri. Ma non ne ho fatto modo per odiarmi. Se sono mediocre forse è tempo di migliorarmi. Non ho altro che il mio amore per tutto ciò che è cultura. La prendo come armatura per non finire in mezzo a quegli ignoranti che hanno come sola arma l'essere arroganti. Non ho altro che le mie convinzioni, cioè che uno dai 18 ai 20 debba pensare agli ormoni. Ma attenzione, anche avere la lucidità di riconoscere il suo amore quando arriverà. Non ho altro che me. Non ho altro che me. Mi sta bene. Non voglio essere qualcun altro. Io non voglio essere qualcun altro. Non ho altro che una qualità, la mia vitalità, è sollevarmi dalla mediocrità, è la mia volontà. Vitalità vuol dire non cadere a una bastonata e non avere una risata, è più delle volte forzata. Ma avere fiducia, avere voglia di ballare mentre il mondo brucia, correre avanti mentre un altro ci rinuncia e non puntare dita col sorriso e dopo accuccia. Non ho altro che una chitarra e crampi alle mani perché ancora non so suonarla. È imbarazzante come me in costume al sole, ma resti un mediocre se non ti metti mai in discussione. Non ho altro che il torcicollo e le sigarette fai da te che rollo. Io sto bene con me, con me. Non voglio essere qualcun altro, io non ho altro che me. Mi sta bene. Non voglio essere qualcun altro, io non voglio essere qualcun altro, io non ho altro che me. Cosa che ho capito, sai, capito. Che non serve troppo pensare, no, ah, sì? Non serve se non a farsi male. E non so se l'hai notato mai, non so. Ma la gente non sta a sentire. Dico, la gente si vuole divertire, sì. Ma attenzione, divertire in modo giusto. Il suono nelle strade lo senti solo se a gusto. Tra chi vuole essere qualcun altro e chi ce lo rende qualcun altro. Com'è? Prendendolo in giro. Com'è giusto che sia. E se sta vita è la mia. Non ho altro che me e sinceramente non lo butto via. Io non ho altro che me. Mi sta bene. Non voglio essere qualcun altro. Io non voglio essere qualcun altro. Io non ho altro che me. Mi sta bene. Non voglio essere qualcun altro. Io non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro. Non voglio essere qualcun altro.